GR24, il sole 24 ore. Cosentino davanti ai giornalisti, ma è rissa, parlerà nel pomeriggio. Berlusconi, abbiamo lasciato fuori gli amici per colpa dei magistrati. Un balzo indietro di 27 anni per il portafoglio degli italiani, rete imprese, reddito pro capite, come nel 1986. Nuova inchiesta per appalti truccati in Lombardia, perquisizione e arresti anche alle metropolitane milanesi. Una chiazza di idrocarburi in Adriatico, scattata la procedura d'emergenza. Buongiorno dalla redazione, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Doveva parlare in questi minuti a Napoli Nicola Cosentino, ma al suo arrivo è stata rissa, è stata clima da stadio. E allora sentiamo subito, cerchiamo di farci raccontare cosa è successo da Paolo Picone. Sì, buongiorno. Troppa ressa di cameraman e fotografi. Nicola Cosentino ha dovuto rinviare l'incontro con la stampa alle 15 di oggi, sempre all'Hotel Excelsior di Napoli. Non a caso l'ex parlamentare, al suo arrivo in sala, assediato dai fotografi, è riuscito soltanto a dire ironicamente: ma tutte queste foto per un impresentabile. Dopo qualche minuto concitato, vista l'impossibilità di procedere, l'ex sottosegretario Campano all'economia, escluso ieri dai candidati del PDL in lista nelle prossime politiche, ha lasciato la sala protetto da un cordone di poliziotti, seguito da decine di cameraman e fotografi. Quella prenotata dall'entourage dell'ex sottosegretario all'economia era infatti troppo piccola per contenere un centinaio di giornalisti e una cinquantina di telecamere oltre ai fotografi. La conferenza dunque, che è stata spostata alle 15, si terrà nello stesso albergo ma in una sala più grande. Ora sono tutti stati trasferiti in questa sala già totalmente occupata sin d'ora. Da sottolineare che eccetto il candidato alla Camera Medeo La Boccetta, qui all'Excelsior a fianco di Cosentino, non si è presentato nessun altro della dirigenza del partito. Per ora da Napoli è tutto, in linea allo studio. Grazie Paolo, torneremo tra l'altro alle 13.30 Italia in controluce a cercare di capire che clima si respira a Napoli. Non ha parlato Cosentino, ha parlato invece Silvio Berlusconi. Elisabetta Fiorito. Sì, proprio così Anna, il Cavaliere ha parlato, abbiamo dovuto chiedere ai nostri amici e colleghi di rinunciare ad essere presenti nelle liste elettorali perché dei PM politicizzati li avevano attaccati e questo fatto è stato divulgato dai media. Era qualcosa che poteva diminuire il consenso, spiega Berlusconi. È stata una scelta dolorosa, a me va il ringraziamento per aver rinunciato di sponte propria a non essere nelle liste del nostro partito. Sono liste, precisa Berlusconi, alle quali nessuno potrà portare delle critiche in modo tale che si possa parlare di contenuti e programmi e non solo di liste. Il Cavaliere propone poi di introdurre la cauzione vigente negli Stati Uniti per togliere la tentazione dei magistrati di togliere la libertà a chi viene fatto oggetto di un'accusa che poi si rivela di fatto infondata. Berlusconi ribadisce ancora una volta la sua candidatura a ministro dell'economia, potrò dare un grande contributo per l'esperienza che ho da uomo azienda, e anche per Berlusconi come per Bersani scatta l'appello al voto utile a non disperderlo nei piccoli partiti. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito, resta, dicevamo, la questione di cosa diranno Cosentino nel pomeriggio e resta aperta la questione delle liste PDL. Se si cerca un voto utile per battere la destra e vincere, c'è solo quello. Scusate, naturalmente questo il pezzo invece che riguarda Bersani, ma dicevamo resta invece, allora sentiamo il nostro commento sulle liste PDL in Campania. Il punto di Stefano Folli. Giudicheranno gli elettori tra un mese se l'opera di pulizia compiuta da Berlusconi e Alfano a poche ore dalla presentazione delle liste del PDL è una cosa seria oppure una mossa disperata imposta dalle circostanze. Certo, le modalità con cui Cosentino è stato estromesso e adesso si prepara a vendicarsi lasciano sconcertati. Sembra di assistere all'eruzione di un vulcano e si capisce quali intrecci erano stati coperti per anni. Ci si domanda anche perché per un Cosentino che lascia altri personaggi parecchio discutibili restano nelle liste del partito berlusconiano o in altre liste, e soprattutto ci si domanda se e quando il dibattito elettorale comincerà a interessarsi dei problemi delle persone. E l'abbiamo sentito anche prima, c'è anche un altro fronte politico, la campagna elettorale invece di Bersani. Se si cerca un voto utile per battere la destra e vincere, c'è solo quello di centrosinistra, c'è solo il voto per noi. E che sinistra è quella che rischia di far vincere la destra? Con queste parole Pierluigi Bersani, ospite di Sky ieri sera, è tornato sui rapporti con Ingroia, un nuovo invito al cosiddetto voto utile, quello del segretario democratico preoccupato in questi giorni per i consensi che la lista guidata dal magistrato rischia di sottrarre al PD. A dargli una mano presto potrebbe essere Matteo Renzi, il cui ruolo in campagna elettorale potrebbe diventare determinante per i democratici nelle 6 regioni chiave, una discesa in campo, quella dell'ex sindaco di Firenze, che potrebbe essere annunciata già stasera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per il professore che succede, Vincenzo Miglietta? Sì, buongiorno. Succede che il premier uscente, alle prese con le critiche arrivate ieri dal Financial Times, rivendica quanto fatto dal suo esecutivo non solo in Italia ma anche in Europa, ciò che questo governo è riuscito a realizzare per far calare l'inflazione e creare più posti di lavoro, dice Monti, è senza precedenti in un periodo di tempo così breve, senza una maggioranza vera in Parlamento. E non solo, aggiunge il professore, senza il nostro risanamento anche la BCE non avrebbe potuto fare molto. Monti spiega quindi oggi la sua decisione di comunicare anche attraverso Facebook e Twitter. Ho deciso di utilizzare i social media perché sono convinto dell'assoluta centralità di questi mezzi per porsi in ascolto dei cittadini. Polemica tutta interna intanto all'area moderata tra il deluso Passera e chi appoggia la lista Monti. Nel progetto politico del senatore a vita, dice il ministro Passera, per ora di cose radicali non ce ne sono tante. A replicare al responsabile dello sviluppo economico è il collega di governo Balduzzi, candidato per la scelta civica in Piemonte. Balduzzi parla della lista Monti come di uno scossone importante per cambiare al tempo stesso la politica e i comportamenti amministrativi. E da Roma è tutto. E grazie anche a Vincenzo Miglietta. E intanto arriva un nuovo allarme. Il numero di disoccupati nel mondo continua a salire. Dovrebbe superare quota 200 milioni nel 2013. Sono le stime dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. A fotografare la situazione italiana è Rete Impresa Italia. 100.000 aziende in meno in un solo anno e il reddito degli italiani a picco, tornato ai livelli di 27 anni fa, con consumi ovviamente ancora previsti in calo. Il responsabile Centro Studi, Mariano Bella. L'obiettivo è quello di rimettere al centro l'impresa come motore della crescita, e quindi abbiamo anche preso atto che nel 2012 il reddito disponibile e i consumi delle famiglie in termini reali, in termini pro capite, sono scesi come non era mai accaduto nella storia della Repubblica. È sceso al 4,8%, i consumi dal 4,4%. Dopodiché questo è quanto le famiglie hanno pagato per raggiungere l'obiettivo del consolidamento fiscale, un obiettivo nobile e importante che ha avuto anche risultati positivi, ma la recessione in qualche modo è stata acuita dalle restrizioni fiscali. Quindi imprese, cittadini e lavoro legati insieme, e insieme si trascinano verso il basso, secondo voi? Quali sono i dati? Abbiamo visto la riduzione di reddito e consumi, dobbiamo anche parlare dell'incremento della disoccupazione e anche dell'incremento della povertà. E le persone povere sono passate tra il 2007 e il 2011 da 2,5 milioni a 3,5 milioni, parliamo di persone che non possono acquistare un paniere minimo di beni e servizi. Il tasso di disoccupazione è passato dal 6 all'11%. E poco fa anche le parole del presidente dell'Istat, Enrico Giovannini. Secondo le previsioni, nella seconda metà del 2013 è probabile un recupero dell'attività produttiva, e tutti concordano però nel dire che sarà una ripresa molto lenta, e se fosse così, ha detto Giovannini, non produrrebbe effetti sull'occupazione. Notizia dell'ultima ora: Fabio Riva arrestato a Londra. Questa è la notizia appena battuta dalle agenzie. Era ricercato da circa 2 mesi, da quando è scoppiata la vicenda Ilva. Sarebbe stato arrestato questa mattina, dicevamo, a Londra. Questo mentre sempre più scontro tra magistratura tarantina e governo sulla legge cosiddetta salva Ilva. Sul tavolo della Corte Costituzionale stanno per arrivare infatti gli atti sia dell'ufficio del GIP del Tribunale di Taranto Patrizia Disco, sia dal tribunale in funzione di giudice d'appello per sollevare il conflitto di costituzionalità. Decisione presa questa mattina e che fa sì che i prodotti finiti e semilavorati giacenti sulle banchine del porto restino sotto sequestro. Queste le notizie dell'ultima ora. C'è anche un altro caso scoppiato oggi, il caso Montepaschi. Occhi puntati sull'operazione Alexandria alla vigilia dell'assemblea dopo le indiscrezioni pubblicate dal Fatto Quotidiano. Il giornale ha riferito di una nuova ondata di vendite sul titolo, fino a un calo del 6,2%. Sta andando ancora male in borsa, ma sentiamo intanto cosa è successo oggi. L'operazione Alexandria prende il nome da un contratto derivato siglato in passato dal Monte con Nomura, una vicenda complessa e intricata che sarà discussa il 24 gennaio dal Consiglio e che è al centro di un articolo di Marco Lillo del Fatto Quotidiano, che contesta un'operazione di ristrutturazione del debito, a suo dire poco trasparente. Alexandria, al vaglio anche della Procura di Siena, sarebbe servita a MPS, secondo il quotidiano, per abbellire il bilancio 2009, scaricando su Nomura le perdite di un derivato basato su rischiosi mutui ipotecari, che poi i giapponesi avrebbero riversato sul monte attraverso un contratto segreto a lungo termine non trasmesso dall'allora vertice di MPS guidato da Giuseppe Mussari e Antonio Vigni ai revisori dei conti KPMG e Banca Italia. La banca senese e Nomura stanno analizzando la situazione e Nomura assicura che l'operazione Alexandria è stata completamente esaminata e approvata ai massimi livelli di MPS. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E sotto i riflettori anche il Banco di Desio. Anche la Consob in Lussemburgo ha aperto un'indagine sulle operazioni dell'istituto, già nel mirino della magistratura italiana. Solo negli ultimi due anni sono stati sequestrati ai confini con la Svizzera 250 milioni di euro sconosciuti al fisco. Eppure sui tavoli delle procure arrivano pochissime segnalazioni sugli esodi di capitale. Uno dei casi più clamorosi è quello che riguarda il Banco Desio e della Brianza, istituto di credito, con 200 sportelli sul quale indaga la Procura di Roma. L'ipotesi è che la controllata svizzera del banco, il credito privato commerciale e in particolare la filiale di Lugano offrissero a facoltosi clienti la possibilità di esportare capitale senza nemmeno assumersi il rischio del viaggio. L'udienza preliminare si terrà in aprile. Nel frattempo anche la Consob del Lussemburgo, spiega il Fatto Quotidiano, ha aperto un'inchiesta sulla base delle dichiarazioni di un manager che è stato licenziato. Come era stato licenziato? Enrico Ceci, 25enne, ex cassiere, che di questo ha parlato pubblicamente. Nel corso dell'effettuazione, infatti, di una operazione in valuta estera, scopro l'esistenza di una pericolosa falla informatica nel sistema della banca. E comprendo di aver messo le mani involontariamente dentro qualcosa di inconfessabile. Questa falla informatica, infatti, poteva consentire l'effettuazione di gravi reati, quali ad esempio il riciclaggio e l'evasione fiscale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Voltiamo decisamente pagina, torneremo più avanti ad altre vicende giudiziarie, parliamo invece di quanto accaduto questa mattina in Adriatico. Una chiazza di idrocarburi è stata avvistata dall'equipaggio di una nave di stoccaggio vicina al campo petrolifero Rospo Mare al largo delle coste tra Abruzzo e Molise ed è scattata la procedura d'emergenza. Il responsabile della relazione esterna della Edison, che opera appunto nelle piattaforme petrolifere della zona, Stefano Amoroso, lo sentiamo al microfono di Adriana Fracchia. Ci è giunta la segnalazione durante la notte scorsa da parte dell'equipaggio del galleggiante che è impiegato all'interno del campo di estrazione Rospo Mare. Sono stati prontamente inviati sul posto sia motovedette sia mezzi antinquinamento ed è stato utilizzato anche un velivolo della nostra base aerea qui di Pescara, della Guardia Costiera, per consentire l'individuazione della presenza di eventuali macchie nella superficie marina attraverso l'utilizzo dell'infrarosso. Al momento non si hanno notizie certe su quantitativi e sulla natura delle sostanze presenti in acqua, comunque non appena riusciremo ad avere un po' il quadro completo daremo maggiori informazioni, maggiori dettagli. Stiamo facendo anche prelievi di campioni anche con le agenzie regionali per la tutela ambiente, quindi comunque penso a breve avremo una situazione un po' più completa. E anche Parigi, dopo la sorpresa ieri della neve, oggi si è svegliata invece con un allarme ambientale. Centinaia di chiamate ai vigili del fuoco, ai servizi di soccorso, alla polizia, che hanno cercato di rassicurare i cittadini. La nube non è tossica. A spaventare molti parigini è stata, la notte scorsa, una fuga di gas da un impianto chimico in Normandia, nei pressi di Rouen. Ma sembrerebbe molta puzza per niente. Si tratterebbe infatti di un additivo al metano, che è inodore, utilizzato proprio per segnalare eventuali fughe di gas. I meteorologi assicurano inoltre che, grazie all'andamento dei venti, la nube dovrebbe rapidamente abbandonare i cieli di Parigi. L'azienda si chiama Lubrizol e fa parte di un gruppo americano acquistato all'inizio del 2011 dal fondo di Warren Buffett. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Di tutto questo abbiamo già parlato, riprendiamo allora da tutt'altro tema. Con il preventivo via libera del Parlamento, l'Italia potrebbe intervenire in Mali e potrebbe farlo con una missione di supporto logistico che prevede l'impiego tra l'altro di due aerei C-130 e un 727 per il rifornimento in volo. A chiarire la posizione italiana oggi il ministro degli Esteri Terzi. L'opportunità che io vedo di appunto rispondere positivamente alle richieste francesi su sostegno logistico e dei paesi africani che sono impegnati nell'attuazione della risoluzione 2085. Tutta questa operazione si svolge in un quadro chiaro dal punto di vista internazionale, vorrei dire blindato, oramai vi è piena consapevolezza di quanto fondamentale sia riprendere, consentire a Ituare una collocazione diversa nella società maliana e quanto ignorare questo problema o perlomeno non averlo gestito appropriatamente sia stata anche una delle cause del precipitare degli eventi. E seggi aperti oggi in Israele, dove si vota per il rinnovo della Knesset, il Parlamento israeliano. Il voto si concluderà alle 22, quando arriveranno i primi exit poll. 32 liste si contendono i voti di ebrei ed arabi. Secondo gli ultimi sondaggi, Likud Baitenu, nel precedente uscente Benjamin Netanyahu e di Lieberman, dovrebbe avere la maggioranza relativa, ma la costituzione di una nuova coalizione di governo in Israele appare laboriosa e pesano gli indecisi. In Europa, Merkel e Hollande faccia a faccia, oggi una giornata storica per le radici europee. Le celebrazioni in grande stile sono cominciate questa mattina a Berlino, prevedono una riunione di consiglio con tutti i ministri dei due paesi, una sessione congiunta dei due parlamenti davanti alla quale parleranno il cancelliere Angela Merkel e il presidente François Hollande. Un concerto della Filarmonica di Berlino, Germania e Francia ricordano così il cinquantenario della firma del Trattato dell'Eliseo da parte di Konrad Adenauer e di Charles de Gaulle, che segnò la definitiva riconciliazione dei due paesi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Già allora le intenzioni dei due leader erano diverse: tenere agganciata la Germania all'Occidente, soprattutto all'Europa per Adenauer, contenere la potenza emergente del vicino per il generale de Gaulle. Oggi, dopo l'età dell'oro delle coppie Schmidt, Giscard e Kohl Mitterrand, i due leader sono di nuovo lontani. L'asse franco-tedesco, che ha fatto da motore all'Europa per decenni, non funziona più, incrinato dall'evidente squilibrio di potere a favore della Germania e dalle differenze tra il Vangelo della disciplina della signora Merkel e le incertezze di Hollande. Fra una visione tedesca che come 50 anni fa punta all'integrazione europea, ma oggi più decisamente nei termini decisi a Berlino, e un approccio francese che vuole salvare la sovranità nazionale. Finita la festa di oggi, Germania e Francia torneranno divisi come prima. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Torniamo in Italia e torniamo alla cronaca. Nuovi guai e nuova indagine per appalti truccati in Lombardia, 16 gli arresti a Milano. La responsabile degli appalti pubblici dell'ALER, l'azienda che gestisce l'edilizia popolare in Lombardia, è finita in carcere a San Vittore. Con lei altri funzionari pubblici ed amministratori privati. Sono in tutto 16 i provvedimenti richiesti ed ottenuti dal procuratore aggiunto Alfredo Robledo, di cui 9 ai domiciliari e 7 in carcere. Al centro dell'inchiesta gli appalti truccati su noleggi auto. Le gare, questo è emerso dalle indagini, venivano vinte sempre dalle stesse società, una delle quali è la Kaleidos SRL, con sede a Saronno, considerata vicina alla Compagnia delle Opere. L'inchiesta coinvolge anche Ferrovie Nord e MM Metropolitane Milanesi. Corruzione e turbativa d'asta, i reati contestati. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizie sulla fuga di Fabrizio Corona, sarebbe spatriato in auto verso la Francia, così secondo la Procura Generale di Torino, che ne ha disposto l'arresto dopo la condanna a 5 anni per l'estorsione a Trezeguet. Secondo i magistrati potrebbe trovarsi verosimilmente in Europa occidentale. Nuove rotte, nuovi posti di lavoro in Italia, ci prova Ryanair, Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Ryanair si adegua al regime fiscale italiano e continua a investire in Italia. Così il numero uno della compagnia low cost, Michael O'Leary, oggi in Italia. I nuovi dipendenti pagheranno le tasse in Italia, ha chiarito O'Leary nella conferenza stampa tuttora in corso. Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, conferenza stampa in cui ha annunciato 4 rotte per Catania, Kalamata e Malta in Grecia e Nok in Irlanda, rotte grazie alle quali trasporterà da Orio al Serio oltre 7 milioni di passeggeri all'anno e sosterrà più di 7 mila posti di lavoro che si aggiungono ai 4.200 di Ciampino per 4 nuove rotte annunciate anche qui, Brema, Corfu, Cuneo e Fex. In merito ai contenziosi davanti al Tribunale del Lavoro per i versamenti dei contributi previdenziali dei dipendenti, O'Leary ha detto: se siamo condannati a pagare faremo appello all'Unione Europea secondo la normativa dei lavoratori mobili. Se pagheremo le tasse dovute in Italia, ha detto, non le pagheremo in Irlanda. Da Bergamo Orio al Serio è tutto. Grazie Maria Luisa Pezzali, torneremo naturalmente su questa notizia. Solo l'ultima notizia prima di chiudere, perché ieri ne abbiamo parlato molto, ebbene anche oggi continuano a ritmo serrato i collegamenti al sistema informatico del Ministero dell'Istruzione da parte delle famiglie per iscrivere i figli a scuola. La quota è 51.640 iscritti, oggi nessun problema informatico fortunatamente. È tutto per il momento, ci torneremo anche su questo nelle prossime edizioni di GR24, in regia Gianmarco Ferronato, nel frattempo da Anna Migliorati ancora buona giornata, GR24 che vi ricordo torna alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questa nuova edizione di GR Spettacoli. Da oggi nei negozi, a 3 anni di distanza dall'ultimo lavoro, il nuovo disco di Ludovico Einaudi. In Time Lapse è il titolo dell'album, 14 brani nei quali, oltre al pianoforte, compaiono archi, percussioni ed elettronica. Sentiamo il compositore e pianista torinese al microfono di Nicoletta Carbone. E secondo me è importante che la musica lasci la libertà a ognuno di essere in qualche modo ispirato. Difatti, tutte le volte che mi chiedono di lavorare a delle musiche con dei testi, mi è capitato di farlo, però mi piace molto proprio la musica senza parole, perché lascia questa libertà in più. È proprio come se la musica ti apre delle porte dentro e sei ispirato a fare qualcosa. C'è molta gente che vedo che scrive poesie, romanzi, cioè, quindi mi scrivono in tanti. Per me una delle cose più belle è sapere che la mia musica genera ispirazione in altre persone. Questo mi sembra un regalo molto bello da poter fare. Insieme al disco i concerti. Tra le tante date, Ludovico Einaudi sarà con il suo In a Time Lapse Tour a Trento il 2 febbraio, l'11 a Torino, il 12 a Milano, il 13 a Roma e il 18 febbraio a Bari. Apre domani al pubblico, al Maxi, la mostra Alighiero Boetti a Roma. 30 le opere esposte, molte inedite, che raccontano l'esperienza artistica di questo piemontese trapiantato nella capitale e innamorato dell'Oriente. Inutile chiedere una definizione di Boetti, legato prima all'arte povera e poi ad una personalissima arte concettuale fatta di arazzi, colori, mappe, simboli. La curatrice della mostra, Luigia Lunardelli. Diciamo che Boetti si è riuscito a definire da solo come il nomade in transito, il beduino accampato accanto al Pantheon, e già questo nomadismo ci rende evidente che non voleva essere definito, perché poi si decide di essere nomadi per non avere un'identità, e forse Roma gli ha offerto proprio questo, la possibilità di lasciare questa porta aperta verso i suoi innumerevoli viaggi verso l'Oriente. Per territori lontani come l'Afghanistan, ad esempio, per Boetti? L'Oriente di Boetti sarà l'Afghanistan, avrà dei lunghissimi e duraturi rapporti con Kabul fino all'invasione russa, e poi continuerà a far realizzare le sue opere a Peshawar da profughi afghani, quindi al confine col Pakistan. Alighiero Boetti a Roma sarà al Maxi, Museo delle Arti del XXI secolo, da domani fino al 6 ottobre. Ha sentito del ritrovamento della cosiddetta nave fantasma? Ho sentito. Tornano a Milano al Teatro della Cooperativa Bebo Storti e Renato Sarti con La nave fantasma. Lo spettacolo rievoca il tragico naufragio del 25 dicembre del 96 al largo delle coste siciliane, in cui morirono 200 33 migranti, una tragedia avvolta in una generale indifferenza. Sentiamo Bebo Storti al microfono di Cristina Carpinelli. Abbiamo deciso con Renato Sarti, con cui sono autore del testo, che i tempi per chi prova odio razziale, per chi è xenofobo, per chi... gli ultimi esempi sono davanti agli occhi di tutti, insomma, dare del negro di merda a Boateng durante una partita di calcio, insomma, ci è sembrato, oltre alle richieste del pubblico, che erano pressanti per rivederlo, che dopo 8 anni in buona sostanza non fosse cambiato nulla nel panorama, purtroppo e meno nel panorama del paese. La nave fantasma sarà in scena al Teatro della Cooperativa di Milano da stasera fino al 27 gennaio. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli. Grazie per l'ascolto, una buona giornata da Roberta Pellegatta.